Pronto? Antò? Chi è che chi parla? David Parenzo. Oh, ciao, ciao David, come stai? Marimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi? Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, mi sto vestendo. Guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatta i cazzi tua, no, va culo. Io me lo so. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nella puntata precedente. Cioè uno può essere un bravo attore, però può anche essere no, il peggior uomo possibile immaginabile. Non sarà il caso di Phoenix, però ha detto una volta, anzi credo proprio in occasione dell'Oscar, noi esseri umani inseminiamo artificialmente le mucche e rubiamo il loro latte. Tu ti senti come uno che ha rubato il latte dalle mucche? No, io francamente cioè ti senti no, quando vai no, a comprare il latte per i tuoi bambini, per i tuoi figli? Ecco, non bevono più latte perché sono grandi adesso e dopo una certa età meglio bere ben meno latte. Ma che cazzo fai? Non ti fai bere latte? Dopo una certa età è meglio bere meno latte. Ma sei impazzito? Cioè, gli hai tolto il latte dalla dieta. Qualunque nutrizionista, ma una ha 13 anni, quindi il latte, voglio dire, non è. Hai tolto il latte dalla dieta? Ma sì, certo, lo sono tolto da solo. Adesso non è che si beve il latte, si bevono i succhi di frutta. Non si beve il latte. I succhi di frutta fanno molto peggio del latte con le peggiori cose dentro i succhi di frutta. Io faccio le spremute fresche io la mattina. Però non bevi, tu hai eliminato. Cosa? Sì, ho eliminato il latte perché qualunque pediatra ti dice che dopo una certa. Ma cosa sei anche pediatra adesso? Ma cosa sei pure pediatra? Pediatra adesso, cazzo, già sei il capo del circo e adesso pure il pediatra vuole fare. Hai tolto il latte ai tuoi figli, libero domani, scandalo, Parenzo toglie il latte, andate a fare in culo, ho tolto il latte perché il pediatra, non uno vale uno, non la piattaforma Rousseau, no, il pediatra, non la piattaforma Rousseau ha deciso che, no, non un Wikipedia, non è Wikipedia, andate a fare in culo! Barisoni gay. L'unica mia preoccupazione non è per me, ho le spalle larghe, se avessi voluto fare qualcosa di più comodo non avrei fatto il ministro dell'interno per la Lega. Mi spiace per i miei figli, che domani leggeranno sul giornale. Che pazienza. Probabilmente chi borbotta non ha il figlio che stamattina gli ha mandato il messaggio prima di andare a scuola, forza papà. Lei taccia. Per rispetto a mio figlio, non a me. Taccia. Buongiorno. Buonasera. David, ci sei o no? David, ci sei o no? Sono stravolto, sono senza voce. Dimmi su, sì, senza voce perché? Perché cosa? Okay. Sono senza voce perché mi fate arrabbiare ancora prima della trasmissione. Ancora sì, prima di iniziare. Sono completamente senza voce, mi fate incavolare ancora prima di iniziare. Anche questa meravigliosa sigletta messa insieme. A ripensare allo scontro che abbiamo avuto ieri, per cui mi hai rappresentato come uno che toglie il latte di bocca. La realtà. fai innervosire come nessuno mai. Allora, qualcuno mi ha segnalato mai. Che stamattina, però sei anche qui per questo, per giudicare se è vero o no, il signor Maurizio Costanzo in diretta, mi dicono, però secondo me non è così. Dicono che abbia ruttato in diretta intorno alle 11.40 11.40 ISO Radio. Sentiamo questo frammento costanziano di un Costanzo ormai in grande spolvero su ISO Radio, ormai va ovunque pur di esserci, ma è naturale che sia così, ragazzi. C'è gente che non si arrende, io all'età sua mi arrenderei. E invece no, lui sta lì. Tu dovresti arrenderti adesso. Tu dovresti arrendersi già adesso. Si sentono dei rumori. Senti qua, stai lì e senti bene. Secondo te è un rutto oppure no? Senti. Eddie Grant, Living in the Front Line, il disco di Alex Messina, ci sentiamo molto reggae. Un bel disco, sì. Ci vedo con i dreadlock. No, era un bel disco. Forse è catarro, forse è catarro, non è rutta. Beh, quello che anch'io avevo catarro. No, ma io non sto dicendo niente. Siccome qualcuno mi ha scritto, no? Ma figurati. Qualcuno mi ha scritto, è rutto alle 11.44. Ma pensassero, ma cosa monitorano? Ma pensassero altro. Ad esempio, non posso urlare oggi perché ho già perso la voce. Facciamo risentire il pezzo, però. Facciamo risentire. Devi urlare, come al solito. Devi urlare. Sei pagato per urlare. Facciamo risentire solo il rutto. No, ma non ho più fiato. Aspetta. Un colpo al cuore mi stai. Ragazzi, Eddie però, Grant Living. Se non ce la somiglia, se non è rutto, siamo lì vicino, dai. No, Di Maio, no. Il coronavirus eccezionale. Questo. Come Di Maio, virus? Virus? Il coronavirus. Signor Di Maio, vai. Ogni Stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus. Corona. Ma chi è il Di Maio? Chi è virus? No, ma chi è? Cazzo ne so chi è. Sarà virus. Un altro virus, boh? Corona virus. Ma come cazzo ti viene? È perché siccome è scritto diversamente, cioè non è una parola totalmente italiana, cioè che avrà delle origini non so cosa, e lui pensa che sia un inglesismo e dunque sì, la trasforma essere, in un pensa che sia, capito, per non sbagliare, invece questo sbaglia e dice virus. Passaggio mentale che ha fatto, certo. Ma la cosa è forse stato membro sta adottando delle misure rispetto alla vicenda e all'emergenza del coronavirus. Beh, vuol dire che però non ha neanche sentito nulla, è un telegiornale, un radiogiornale, chiamato in cui sul si parla di coronavirus. Che... Però. Allora, le sardine avevano detto che sarebbero scomparse dalla scena, ma non sono io ossessionato. Non sono io ossessionato, sono loro con Santuzzo, San Minchia, San Cazzo, non so come diavolo chiamarlo perché Santori, non mi viene più. Il Santori. Quale dice: vogliamo scomparire dalla scena mediatica, non andiamo più nelle trasmissioni, non facciamo più questo, non facciamo più l'altro, un momento di riposo, siamo stati troppo presenti, non so, cose del genere. Dopodiché lo ritroviamo ogni santissimo giorno in tutte le TV italiane a dire peraltro che loro non vogliono più andare in TV, tra le altre cose. Ma è una cosa incredibile, ma è una cosa pazzesca. Sentiamo, dai, sentiamo la nullità di oggi. Dov'era l'area che tira? Lo zero assoluto all'area che tira. Però siccome c'è la faccina col cerchietto che ma può che attirare, cerchietto? Cosa c'è? Può attirare la faccina del col cerchietto di Santuzzo, allora ma giustamente lo chiamano merito, ma criticano ma nel non merito, c'è non merito per ci fosse merito ti direi lo critico. Quando abbiamo tirato fuori una cosa ieri, l'Erasmus Nord-Sud, è crollato tutto. Dunque non c'è mai sì, merito. Quello mi per, ma quello non c'è mai merito, mi, come si dice, perplime pure a me, dai, quello lì. Noi abbiamo spesso contestato Facebook o contestato i contenuti Facebook. Di Facebook o i contenuti della famosa bestia di Salvini e abbiamo capito che l'unico modo per contestare era offrire un'alternativa e quindi noi abbiamo riempito, bombardato i social di messaggi positivi, di creatività, anche di parole, senza smile, senza trucchetti da comunicazione e abbiamo dimostrato con il seguito che abbiamo non solo sui social che evidentemente era possibile. Abbiamo riempito i social di positività. Questo dicono le sardine. Questo dicono le sardine. Dai ragazzi, fatemi sentire Porro che è una ventata d'aria fresca. Toc toc. Non ce la faceva chiamare toc toc. No, no, ma una ventata d'aria fresca. Lo no, senti? No, no, no, ce l'hai. Come ho perso la voce? Come l'ho persa? Ce l'hai. Qualcuno mi ha fatto arrabbiare, si dai, vede. Dai, non lo so che cazzo hai fatto oggi, dai. Vabbè, di politica, ragazzi, è da pisciarsi delle risate l'intervista a questo a Cerchietto Santori. Il Cerchietto Santori, sputtanato da Ogongo l'altro giorno in televisione, che dice che gli ha mandato degli sms dicendo che era un piccolo liderino di questi liderini che, no, che dicono in televisione tu non ci devi andare, di politica tu non ci devi parlare. Beh, insomma, oggi fa un'intervista, oltre ad aver detto quella minchiata pazzesca, va da Provenzano, ministro secondo me intelligente del PD e del Sud, e gli dice: c'ho un'ideona, facciamo l'Erasmus tra Nord e Sud. Toc toc! Erasmus tra Nord e Sud, così magari qualche veneto inizia a parlare pugliese. Questo è il concetto dell'Erasmus Nord-Sud. Ma questi veramente, cioè, idee zero, e quelle poche che hanno sono delle minchiate. Avanti tutta! Però questo attacco concentrico che i giornalisti sovranisti fanno verso... Ma sei tu che etichetti le persone? Non c'è nessun giornalista sovranista qua. Ma non c'è alcun giornalista che avete paura di questi ragazzi. Ma chi? Pigliamo per il culo, perché detto sono ridicoli. Due sciocchezze clamorose, ma sono la vostra ossessione. Ma non c'è l'ossessione, che stanno dappertutto. Io vorrei sapere che cosa pensano Cruciani e l'amico che Porro, cosa? Che è un liberale di Salvini e della Lega. I leghisti sono usciti dall'aula per non votare l'autorizzazione. Mi risulta che al contrario di quello che tu dicevi, Salvini, che dice che faceva un trucco per non andare a processo, mi risulta che oggi va a processo. Ma tu credo? Hai perso, ha fatto qualsiasi la campagna elettorale in Emilia. No, un momento. Trucco. Stai attento. Dicevi che era è un stato trucco. Un trucco in campagna ma elettorale. Sì, vabbè. Intanto va a processo. Ma non porro, con il voto porro, dei leghisti. Ma però. Chi se ne frega? È uguale, dai, su. Chi se ne frega di queste bazzecole della politica? Questi marchingegni. È determinante. Va a processo, sì o no? Ma inizialmente sì, non ci voleva forza, andare. Poi c'era la campagna elettorale in Emilia Romagna. Va a processo, dai, vai. Inizialmente ha spiegato perché non ci doveva. Ma andare. Chi se ne frega, dai, la gente non mi frega un cazzo. Sono le contraddizioni di Salvini. Ma quale? Va a processo, che tu non detto vuoi che, evidenziare. Ha detto che vuole, in questo caso ha detto che vuole andare mese, a processo. Un mese fa, nella stessa sede, vabbè, aveva presentato dei documenti per dire che non si sarebbe presentato al processo, non ci doveva andare. E lui dice varie cose, tra cui: mi sento come un segretario, giuro, l'ha scritto, mi sento come un segretario di partito, ma senza nessun privilegio dei segretari di partito. Non comando, non ho autorità, non prendo un soldo. Non comando, non ho un'autorità, non prendo un soldo. Ma perché cazzo dovresti comandare? Ma chi dovresti comandare? Ma perché dovresti prendere un soldo? Ma perché dovresti avere autorità? Toc toc! David! Domani sera ti porto un cannone! Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. E non si capisce perché Joaquin Phoenix non può dedicare il suo Oscar a che cazzo gli pare a lui, al fratello, agli animali, alla vipera che si tiene in giardino, e invece tu gli devi rompere il cazzo spiegandogli cosa deve dire quando lui vince un Oscar. Ma che cazzo vuoi? È come se quando tu avessi vinto quel premio di merda della radio lì, il microfono d'oro, allora quando hai fatto i ringraziamenti la prossima volta ti diciamo noi cosa devi dire. Sei proprio un coglione certe volte, Grux. Allora, bisogna dire a questo cretino che ovviamente ognuno può dedicare i propri successi, i propri premi a chi vuole. Nessuno mette in dubbio questo, nessuno mette in dubbio la legittimità di dedicare al proprio cane, alla natura, ai cuccioli che muoiono, alle mucche che vengono ingravidate secondo lui, eccetera, eccetera. Signor Phoenix o chiunque sia, chiunque prenda un premio, può dedicarlo a chi vuole, nessuno mette in dubbio questo. Dopodiché, se uno dice che bisogna connettersi con la natura, che noi stiamo facendo un grande omicidio di non so che cosa, che stiamo ingravidando le mucche che invece dovrebbero produrre latte solamente per i propri figli, uno si può permettere, nel nostro piccolissimo rispetto ai mostri sacri dei premi Oscar, eccetera, di criticare questo signore, anche perché mi sembra che ci sia qualcuno che lo segue in Italia, diverse persone, tra cui Fabio Volo, il quale questa mattina, delirando, mi suggeriscono, delirando, dice che i leader spirituali del mondo spingono molto sul concetto di connessione con la natura. La connessione con la natura. Chiunque lo dice. Ragazzi, la connessione con la natura. La connessione con la natura. Ma che cazzo vuol dire stare connessi con la natura? Non vuol dire un cazzo, ma sono parole inutili, vuote. Ma stare connessi con la natura può piacere come slogan. Ma che vuol dire stare connessi con la natura? Delle pratiche molto semplici. Che non è solo il saluto al sole. Fammi sentire Fabio, purtroppo cioè, fa finta di non essere cinico a questa sua venatura tipo da guru, da spiritualismo inutile. Vabbè, che dobbiamo fare? Va bene, allora ragazzi, sì, è una cosa molto importante. Negli ultimi anni anche la parte diciamo spirituale, diciamo come dire, i leader spirituali del mondo sarebbero poi spingono molto sul concetto di la connessione con la natura. Certo. Beh, io spiego, ma chi la prima domanda è questa. Partiamo. Chi sono i leader spirituali di questo cazzo di mondo? Nessuno. Non esistono i leader spirituali se ma non nella mente di alcune persone. In connessione con la natura. No, lo ma sai? No. Io sono parto dall'inizio. Vere. Ma che significa i leader spirituali del mondo? Chi sarebbero i leader spirituali del mondo? Ognuno ha i suoi leader spirituali, o se uno ce li ha, una roba incredibile, dai. Entrate in contatto anche con il vostro cane. Ormai è un delirio, anche Fabio Volo delira. Il mio amico Fabio Volo, glielo diranno, ma è attaccato oppure lo sente. Ma non è un attacco. Ma invece è una cosa molto vera. Ma chi è il leader entrare spirituale? Entrare in connessione con la natura. Tu hai un leader spirituale? Tu hai un leader spirituale? Ma no, ma lascia io perdere no, entrare in connessione magari, con la natura. Magari sì. Hai un leader spirituale? Ma persone. Se hai un leader spirituale, maestri, ti giuro, ti vado a rinchiudere. Magari chiamo i carabinieri. Ma dei se maestri. Tu mi dici un leader spirituale, chiamo i carabinieri. Magari dei maestri, tutti noi dobbiamo avere dei maestri a cui fare riferimento. Dei maestri. Nella Torah c'è scritto trovati un maestro e saprai la strada. Trovarsi dei maestri, anche tu avrai un maestro che ti ha insegnato il mestiere. Sì, ma qui stiamo delle parlando persone, di un'altra cosa. No, qui è la stiamo stessa cosa che lui ti sta. Ma che vuol dire? Ognuno ha i suoi riferimenti. Mi sembra giusto? Verdone nel film là, Bianco, Rosso e Verdone, dai, il leader spirituale. Quando si è connessi con le altre cose arrivano anche le risposte dagli altri esseri viventi, che può certo essere una pianta, può essere un animale, no? Anche col vostro pianta. Cane a volte vi suggerisce delle cose, guardare la parte animale. Il cane suggerisce entrare in contatto con le piante, io non ce la faccio, non ce la posso fare, dai. Che sei, non ce la posso fare, ma non ce la posso fare, non ce la posso fare. Poi si mette a leggere George Phoenix quando parla delle grida del cucciolo. Vabbè, è tutta una cosa, le grida del cucciolo, questo e quell'altro. Poi uno magari viaggia con gli aerei. Che è incredibile, dai. Stiamo parlando di lotta contro l'idea che una nazione, una popolazione, una razza, un genere o una specie abbia il potere di dominare, controllare, sfruttarne un'altra, rimanendo impunita. Ci siamo disconnessi dalla natura. No, non ci siamo. Pensiamo di essere al centro del mondo e facciamo razzia di risorse. Ma non è vero. Ci sentiamo autorizzati a inseminare artificialmente una mucca. Sì, e quando sì partorisce rubiamo il suo cucciolo. Non anche rubiamo. Se le sue grida di disperazione sono inequivocabili. È una cosa incredibile. C'è da segnalare oggi una litigata tra le Poste Italiane e l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Sembra incredibile, ma qual è lo spunto? È una cosa comica. Signor Sarri, in conferenza stampa, siccome è sotto accusa per la Juventus, eccetera, eccetera, dice: se non volevo essere sotto esame, lavoravo alle Poste. Poste Italiane invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo bellissimo per informarsi che il Poste è la più grande azienda del paese, che viene scelta dai giovani laureati come una tra le aziende più attrattive, ha usato lo stereotipo assoluto in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per la qualità, eccetera eccetera. Esatto. Gli esami, contrariamente a quanto sostiene Sarri, alle Poste ci sono e come. Che lui è fermo agli stereotipi di Checca, bellissimi, però non voleva di dire questo, no? Ma non voleva come dire si questo diceva negli anni Ottanta, vai a lavorare, come dire, sì, vai a lavorare, vero, nel pubblico. È vero. Alle quello Poste è si dice alle Poste. Lo stereotipo di dire vai sì a lavorare, però non voleva poste dire con disprezzo, sì, con ma disprezzo. Ma non lo dice come dici tu, vai a fare il bidello, ma io come lo dici difendo, tu lo sai perché? In modo di perché siete persone, voi siete radical chic. Voi siete. No, dice un'altra cosa. Come quando tu dici vai a fare il bidello, molto brutto, ma non l'ho detto, dici. Ma non l'ho mai molto detto. Brutto quello ma ti che posso dici dire, tipo, disprezzando ti il personale spiegare di servizio. Vabbè, che lavora a fianco ai nostri ti bambini posso nelle scuole. Ti posso dire, sei spregevole. Giù questa, sei spregevole. Tirate giù il microfono un attimo. Allora, se non si ferma, devo tirare giù il microfono. Allora, la spiegazione di quello che voleva dire Sarri è molto chiaro. dice, un allenatore non è come un dipendente delle Poste che sostanzialmente non può essere mai licenziato, stereotipo. Delle Poste o come di qualsiasi altra azienda con i contratti a tempo indeterminato, è un allenatore di pallone, dunque è sotto, no, guarda, ma non è perché lo direi comunque a prescindere, guarda. Non mi sta particolarmente simpatico, Sari, per cui non me ne frega niente, difendi, no, guarda. Ma sto difendendo il principio, non è che voleva attaccare le Poste italiane, dai ragazzi, non diciamo cazzate, ha detto un allenatore lo possono cacciare domani mattina ed è sempre sotto esame, un dipendente delle Poste no, questa è la spiegazione, dai, su, Diop da Torino, ragazzi, non diciamo cazzate, non è che voleva attaccare le Poste italiane, guarda, guarda come lo difende, ma non è che difende. Difendo lui, difenderei chiunque, Diop da Torino, dai, Diop, che vuole, ah, questo è il solito Diop, sì, amico nostro, no, ti conosco bene. Dimmi, dimmi Diop, che cazzo vuoi? Dimmi. Bene. Dai, tutti cretini, l'unico cretino sei tu, testa di cazzo. Sì, dimmi, questo è un altro. Tutti gli immigrati ce l'hanno con me. Vabbè, no, d'accordo. Che cazzo ce l'hanno con te? Tu, neanche gli italiani buoni ce l'hanno con te, perché spari sempre le minghiate. Io ti credo bene che Italia veramente c'è la libertà di espressione, sennò lì avevano già allargato il culo. Meno male, meno male. No, scusami, veramente. Scusami, Diop, ma tu sei anche sardina per caso, Diop? Sì, sì, per questo che ti hai chiamato. Tu, ah, puoi, tu sei, fai anche parte del movimento delle sardine. No, benissimo. Tu devi finire di rompere i coglioni, la volgarità, a chiamare, insultarti, sì. No. Tu Santussi lasciala stare, tu no. Lasciai che lui non rispondi, non parla, per questo che continua sempre ad insultarlo, no, veramente parla sempre, parla sempre, no, chiama il suo nome, no, San Cazzo, l'unico San Cazzo sei tu, capito? Quello nome tienilo tu. Non ma la cosa? Devi chiamare più, no, ma io lo chiamo come mi pare, non mi ricordo il nome, dunque viene San Cazzo, San Minchia, San Tuzzo, dai, sa benissimo il nome, come sa benissimo il nome, come ti piace solo denigrare. Io l'unica cosa che so di te, Cruciani, tu non ti piace quel sistema dei giovani che vogliono cambiare il mondo, ormai tu sei un fottuto vecchio che fra 10 anni hai, scusa, Europa, tu che fai parte delle sardine, quanti anni hai, per curiosità? Curciani, quanti anni hai, tu, Diop? Io ne ho 52 anni. Ma allora che cazzo vuoi, allora, anche tu? Cosa no, vuoi? Fammi finire, sei una sardina di 52 anni. Ma quale giovane? Ma giustamente, finire, perché non sono tutte giovani le sardine. Curciani, sono le minchiate che dite voi. Fammi finire. Ma che io fai faccio arti marziali, sono terzo danno di karate. Ma chi se ne frega? Sì. Ti sto dicendo che io non so un movimento di quello testa di cazzo come te. Ti voglio solo dire, finisci la chiamata, il suo nome è moderate, le sardine moderate. Perché, le sardine moderate, capito? Moderate, molto moderate, perché però moderate quando ci cazzo, continua a rompere i coglioni uno come te, le facciamo vedere ai moderati, ci sono le limiti. E dunque tu devi finire di scassarci la minchia. Ma chi? Scassare la minchia chi? Alle sardine? No, è finito, sardine, io e tutte le sardine. Ma che io c'hai, la tessera? Tu non parli per tutte le sardine, parli per te stesso, no? No, che hai la tessera? Hai preso la tessera? No, perché non è un partito, non è un partito. Sei andato in piazza a Torino? Sei andato in piazza a Torino, sicuramente. Tanto che te l'abbiamo messo nel culo tu e i tuoi amici leghisti, quindi di una parte l'abbiamo messo, capito? Tu devi dire grazie a Dio che non abbiamo fatto una partita, Diop, non abbiamo fatto un movimento, se no te l'avevamo messo nel culo tu e i tuoi amici leghisti come te. Di che origine sei, Diop, tu? Di che origine? Io sono Senegal. Senegal, tutti dal Senegal vengono a testa di cazzo. Ci sentiamo dopo, Diop, ti richiamo verso le 19:15 quando questa disgraziata trasmissione ricomincerà. Ma che pezzo di merda sei, Cruciani? Ma sai che questo è un problema? Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi stai girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male, per caso? Zanzare fa riguana, oh oh oh oh. Zanzare fa riguana, oh oh oh oh. Zanzare fa riguana. Andate la droga! Stasera sei proprio carico, sei grandissimo! Sì, sono due settimane che sono carico! Devi finire di scassarti la minchia. Cruciani, io penso che tu non sappia neanche che cos'è una donna. Hai mai toccato una donna che non sia una prostituta? Penso proprio di no. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Allora, amici cari, due piccolissimi che dati. Che è successo? Due cosa è successo? Ho fatto un'analisi molto attenta. Penso che oggi tu sei incazzato, soprattutto hai perso la voce, soprattutto per quelle scritte vergognose che sono apparse a Pomezia, eccetera, contro gli ebrei. Non ho più fiato per urlare. Mi auguro che anche tu lo abbia, ma vedo che a te non ti indigna, quindi dici che è normale. Ma non sto dicendo che è normale. Cose ormai vergognose. No, non ti seguo neanche più. Ma sei impazzito, ma è una vergogna assoluta. Spero li prendano questi autori di queste scritte. Mi fa talmente tristezza. Mi stupisco come delle persone oggi, con tutte le telecamere che ci sono, vadano a fare delle scritte antisemite. Spero che con le telecamere, siccome sono le telecamere, non dovrebbero farlo. Incredibile. No, non ho detto questo. Non ho detto questo, però ho detto che quelle scritte sono una vergogna. Quelle scritte sono una vergogna. Non è di questo che volevo parlare, perché mi dà veramente dolore parlare di questa cosa. Ma invece ho analizzato, ti rubo 40 secondi, il quotidiano Libero. Che è successo? Sai qual è la pubblicità più presente? Non dirò il nome del farmaco, ma la pubblicità più presente sul quotidiano Libero. Sulla prostata, bravissimo. Sulla prostata. Ti sei mai chiesto perché un'azienda decide di investire su questo giornale associando al nome del giornale la parola prostata? Ti sei mai chiesto perché su questo giornale che ho in mano e che forse vedi, la pubblicità più venduta è relativa alla prostata? Perché? Di domanda. C'è evidentemente i lettori. Due sono ragioni. Un buon numero di lettori sono bisognosi di questo farmaco. Che cazzo ti devo dire? Per forza è così, no? Oppure che molti lettori, analogia, essendo la prostata direttamente collegata all'organo di riproduzione, assolutamente, allora, sono per la proprietà transitiva, sono impotenti, delle teste di prostata. No, questo non c'entra. Ciò detto, per avvalorare questa tesi, non ho alcuna acrimonia nei confronti del giornale, né del suo direttore. Allora, per avvalorare la tesi della prostata e quindi del cazzo, come diresti tu, leggo un editoriale a firma di V.F, cioè Vittorio Feltri, il quale direttore scrive: al sud c'è il pesce, al nord l'uccello. L'inizio dell'articolo suona così. Giuro, amici ascoltatori, l'inizio dell'articolo suona così. Come è noto, il pesce è il nome che a Napoli si dà all'attrezzo che a Milano è chiamato uccello. E questo sarebbe un direttore di giornale. È fattuale. Io questo domani lo porto a Firenze, perché voglio degli amici che saranno a Firenze, un plebiscito su questo. Io chiederò il voto popolare agli amici di Firenze. Ma su che domani. Cosa? Ma è fattuale. Su questo articolo, a Napoli, voglio pesce, a il voto uccello. Popolare. Cioè, in realtà poi a Milano, allora, uccello. Un giornale che parla di cazzi ha, per dirla scusate in modo greve, ha come pubblicità una cosa che parla di prostata. Non lo dico io, è il quotidiano Libero. Voglio farvi sentire invece un'argentina, la Kirchner, come sapete, vicepresidente credo dell'Argentina, la quale parla di mafia italiana. Non ho più cioè voce, che vado in via, Argentina non ho voce. Praticamente gli italiani sono una roba talmente assurda che non è manco da commentare. La signora Kirchner, che pensasse ai cazzi dell'Argentina invece di rompere i coglioni all'Italia. Deve essere ese componente mafioso los ancestros de quien fuera, como denunció un conocido periodista en el diario de Página 12 cuando habló de la dragueta italiana. La mafia calabresa. Deben ser esos ancestros, bueno... Gli italiani mafiosi per genetica. È una specie di Meluzzi. È un Meluzzi locale. Meluzzi parla di mafia nigeriana. Ma che cosa c'entra? È un Meluzzi locale. Ma che c'entra? Quindi sono delle indagini sulla mafia nigeriana in Italia. Ogni paese che vuol dire? Ha il proprio Meluzzi, purtroppo. Dai, su, mafiosi per genetica gli italiani. Ma che cazzo di roba è? Ma sei Meluzzi, è il Meluzzi locale. Attacchi, dai, il Meluzzi locale. Il Meluzzi locale. Allora c'è ancora Diop collegato con noi, però signor Diop, signor Diop. Diop. Sono Diop, non sono signore io. Sì, ma che cosa sei allora? Che cosa, che non mestiere sono fai? Signore, sono solo, l'altra volta me l'hai chiesto, te l'ho detto, io sono tornitore, faccio operaio, faccio benissimo, operaio, ottimo, capito? Fai non sono rispetto. Un testa di cazzo come te tutto il giorno poggiato al culo ad sparare le minghiate destra e sinistra, capito? Bravo, lì la diversità. Hai capito? Ma che cosa dici? Ma di cosa stai parlando? Ma di cosa parli? Non stai facendo un cazzo, dico, voglio dirti che non siamo uguali, io lavoro. Ma capito? Tu non... lavori, sì. Io pure lavoro, ognuno c'ha ma il suo lavoro. Ma che cazzo è il lavoro? Tu hai lavoro, questo è un lavoro. Poi sì. Volevo solo dirti una cosa. Hai pure tempo in piazza per, per andare in piazza dalle sardine, dai, hai pure volevo tempo da perdere. Volevo dirti una cosa, poi basta, ti togli i coglioni. Sì, dimmi. Ho sentito l'altra volta che Palermo, che è un ragazzo senegalese che è stato aggredito, no? Sì, gravissimo, certo. Ha ragione mio fratello Paco, anche la saluto, loro lo fanno solo quando sono in 2, 3, 4, 5, ma nessuno, uno solo non li farà. Beh, tipico, mai tipico dei coglioni o dei violenti che vogliono picchiare una persona, punto, basta. Quindi e allora questo che io cazzo non vuoi? Mi metto lì da perdere tempo. Ma come, che è colpa di Salvini se questo è stato picchiato adesso, Diop, è colpa di ma Salvini? Ma che cazzo me ne frega, io a me nessuno che mi picca, nessuno che ci provo, io non mi è mai capitato, mai, spero che non mi capiterà mai. Mai. C'è un camionista incazzato con te, non so se abbiamo il WhatsApp pronto. Allora, il mandami il camionista, diglielo che l'ho indirizzo mio e vieni qua. Sì. Però devi essere molto preparato, diglielo prima. No, ma questo è incazzato nero, sto camionista. No, cazzato nero. Dille, io ti do i miei generi, diglielo che quello lì peso 86 kg, alto 1,80. Ma chi? Tu pesi 86 kg? Sì. Alto 1,80. Aspetta, ti faccio campione sentire. Campione di arti marziali 3 volte, quindi devi prepararti per venire qua, ok? Aspetta un attimo. Aspetta. Ma dici un po' a quel decelebrato di senegalese che ha chiamato prima, cintuone al terzo dan, no? La sardina. Si facesse trovare davanti al camion mio, gli do io cintuone al terzo dan. Ma vaffanculo sardina dei miei coglioni, ma rivaffanculo un'altra volta, Elia camionista fascista. Capito Diop? No, mi devi parlare, io la piccio nel culo questo. Ma cosa? Capito? Dai, no, questo è uno scontro io. Titanico tra un tornitore nel culo questo. Un tornitore. Sono solo questi, sono i conigli, cantano dentro i camioni ma non escono mai fuori. Tu dici? Qualunque chi ci contra come te lo dico io, la pizza dentro il culo io. Tu dici, che, io. Tu dici che questo qua è un coniglio? Un coniglio, sì. Questo qua, digliela. Questo qua fammi io. Fammi sentire un messaggio, digliela che Job dici che sei un coniglio. Un giorno che ti capita lui davanti a te, ti pista dentro il culo, ti ficca ma quel no, camion che c'hai nel culo. Ma cosa diglielo. Diciamo? Ma cosa diglielo. Dice questo? Diglielo. Aspetta un attimo che te lo sto chiamando, così glielo dici direttamente. Io te lo sto chiamando, speriamo che rispondi col coniglietto. Allora, questo è uno scontro tra un tornitore, gente proletaria, sì. Un tornitore Diop da Torino, che secondo me dice un sacco di cazzate. Ma vaffanculo, cazzate, Elia, le dici tutte per camion. Camionista fascista, dichiarato fascista più volte. Dici tu? Signor Elia, no? Eccolo qua, Elia. Mamma mia. Che Elia. Un attimo, dammi tempo, mi fermo, sono sull'autostrada, un attimo. Sull'autostrada, sì, un classico. D'altra parte fa il camionista questo, dove deve stare? Per forza sull'autostrada, no? Sto qua a Ponte d'Olio. Ma stai mangiando? Che c'hai in bocca? Sì, sto a mangiare. Allora c'è Diop, ho fatto ascoltare il tuo messaggio a Diop, dice che ti aspetta, Diop, signor Diop, sì. Diop, di qualcosa lì. Dillo che ti aspetto. Dove l'aspetti? Dove? Qua a Torino, dove cazzo deve aspettare? Perché ho sentito che lui dice che si mi ha davanti nel camion e mi mette sotto. Così ha detto? Sì, così ha detto. Diglielo che venire a Torino. Ma sta qua, diglielo tu. Le palle te la strappo in due, vedi che io. Quando sono entrato, ascoltami bene, io quando sono entrato qua, ne dove? Avevo solo due coglioni. Dove? Ma mano che vivo con gli italiani, ne ho quattro coglioni ne ho, perché me l'avete segnato voi, sì. Me l'avete segnato voi, allora. Se ti capita che tu passi Torino, pure oggi sto a Torino io, all'azienda per cui lavoro, non posso dire il nome per non fare... pubblicità. Ma non stavo a Brandizzo, stavo a Torrazzo. Però scusami un attimo, Diop, non ho capito. Siamo noi italiani che ti abbiamo fatto diventare quattro palle, non ho capito. Sì, mi hanno segnato avere quattro coglioni, sì. Che siamo razzisti noi? Siamo razzisti. Ma che razzisti? Ma che razzisti? Non ti entra niente razzismo. Ti ho detto che io sono sposato qua con cittadino italiano, ne ho quattro figli. Quindi, razzisti non me le devi fai parlare. Allora, hai Elia, capito? Che vuoi dire a questo signore? Ho detto, guarda. Quando vuole incontrarmi, io due volte a settimana sto a Brandizzo e a Torrazzo, a Torino, a una sede di una grossa multinazionale, a caricare e scaricare. Lui va là e dice, quando viene Elia camionista, mi conoscono, Diop. Ti fa dire quando vengo. De sentirti parlare solo ai coglione mozzo, mio figlio che ha 16 anni, tu Mio figlio che sa 16 anni, sai cosa fa? Ti entra direttamente nel culo, figuriamoci il padre. Lascia stare perdere, ok? Lascia stare perdere. Elia dice che c'hai le palle mosce, fermi tutti. Hai le palle mosce, basta sentirla parlare. Basta sentirti parlare. Pippe. Messaggio per Paco il sindacalista. Volevo dirti che devi ringraziare Gesù che sta in Italia, perché se stiamo in un altro paese con gente che c'aveva le palle sotto, non ti permettevi di dire leghisti di merda, fascisti di merda, gobbi juventini, anche se dei gobbi non me ne frega un cazzo perché sono romanista. Ti avrebbero rispedito in Africa a calci in culo, no coi barconi, stronzo. Chi era quel cretino di poc'anzi? Cruz, non solo siamo tutti del Senegal, ma io faccio anche Dio di cognome. Che spacchiamo il culo, te vedrai, tu e tuo amico vi spaccheremo il culo, andate avanti, vedrete come finirà. Pezza di merda che non sei altro. Anche tuo amico, pezza di merda. Dite a quel coglione di Feltri che se l'odio è il motore del mondo, il primo a morire male deve essere lui. E ci divertiremo tantissimo. Quel pezzo di guano. Marcio. Questa è la risata di Vittorio Feltri. Cosa mi devi dire, Parenzo, ancora su Feltri oggi che non sappiamo? Cosa ci devi dire di nuovo? Guarda, cosa ci devi riferire con, di nuovo? Con vivo interesse ho preso in mano appunto il giornale e sì. la cosa che ho notato è quella che ti ho detto poc'anzi, cioè la pubblicità più gettonata è quella riguardante la prostata. Sì. Altre notizie importanti su cui soffermarsi? No, quella battuta che ha fatto quella là sull'uccello. No, lui ha aperto l'articolo, il lead diremo, l'attacco dell'articolo, tecnicamente si chiama lead, no? Ci hanno insegnato. Non si può dire lead, vabbè, non diciamo lead, se non ti piace usare una parola intelligente ogni tanto lead. Allora, inizia così il pezzo: come è noto, il pesce è il nome che a Napoli si dà all'attrezzo che a Milano è chiamato uccello. Questo è il coso. E allora? Poi scopro che in realtà questa è una citazione e non ci sono le virgolette. Cioè, che vuol dire? Scusa, che ha copiato? Assolutamente. La stessa cosa la scrisse un signore che si chiama Enzo Biagi, il quale scrisse: difficile capire un paese, virgola, scrisse un libellista, dove la stessa cosa viene chiamata al nord uccello e al sud pesce. Enzo Biagi. Non lo cita, non lo mette tra virgolette, quindi pure un copione. Cioè, non solo fa un pezzo dove, a differenza di parla dell'uccello in tutti i suoi dettagli, perché poi l'articolo va avanti. Ma quello è meraviglioso. Se abbiamo la gentilezza di leggerlo, dello stantuffa. È un tuo amico, parla anche dello stantuffa. Io lo trovo geniale, no? Parlare dell'uccello è molto meglio che. Senti come ride. Quello che Salinger scrive ancora il nostro direttore. Quello che Salinger nel giovane Holden qualificò con il verbo stantuffare. Trattasi, come nel caso dell'autore americano, di un romanzo di formazione. Mi sono concesso lo scherzo salace, dice il nostro direttore. Vabbè. Ma perfettamente in tema. Siamo sempre con Elia, il camionista, il quale ha attaccato frontalmente Diop. Allora, Elia, io non capisco che cosa ha detto di male Diop. Spiegami, secondo te. Ma che male ha detto di male? Ma via qua giù Italia e sta rompe pure i coglioni, sta a rompe. Non ho capito, Lia. Allora, ha chiamato le sardine, no? Ha chiamato dicendo io sono alto 1,80 m, faccio il terzo dan. Non gli entra un cazzo qui. Ma che c'è? Ma che mi sta? A minacciare mi stai, io. A Giuseppe. Stai a minacciare Diop. No, stai sparando le cazzate, non ti entra niente, hai capito? No. Io questo era un altro modo di spiegare i curitiani quando mi ha detto quanti anni hai. Gli ho detto che io sono bel tenuta, ma non ho minacciato nessuna, hai capito? Tu che hai mandato un messaggio a minacciare me, a parte tutte quelle cazzate che tu spari, ti auguro di non avere mai niente da fare con uno come me. Hai capito? Io sono buono, però bravo. Non accetterai nessuno che mi tira i coglioni, questo no. Capito, Elia? No? Rispondi. Amico mio, la redazione sai il vecchio lavoro che facevo io. Che fai tu? Lavoro? Non lo so, che lavoro facevi? Non lo posso dire, perdonami. Ma non il criminale avrà fatto, il criminale. Cioè, amico mio, non lo so, non ho idea. Te lo dirò in privato. Io, gente come te, caro Gigi, come cavolo Diop. Me sono legati ai coglioni. Beh, questo è brutto però, questo è brutto. Mille volte. Questo è brutto, capito? Diop, hai paura di Elia? Hai paura di Elia? No, digliela che a me si mi legga sui coglioni, non la vederà più. Non la vederà più e i coglioni. Quanti anni hai, Ilia? Mi dici, quanti anni hai tu? Se è vero l'età, chi ha detto, siamo coetanei, 52 anni. Bene, 50 anni, va benissimo. Sì. Io quando sono entrato qua in Italia, bene che fate 19 anni. Quindi allora, tu fai conto. E che c'entra questo? No, c'entra perché vuol dire che questa spara mingati che dici, ne so. Dice anche di essere fascista, caro Diop, Elia, no? Dice anche di essere fascista, caro. È libero di fare come cazzo che vuoi. Io sono razzista, sono l'isola. Non me ne frega di niente, basta che a me non mi deve scassare la minchia. Capito, siete liberi di essere fascisti, quando cazzo volete, però a me nessuna che mi deve scassare la minchia, punto, basta. Allora Elia, per te Diop va cacciato, dovrebbe andare via da questo paese? È un lavoratore, lavora al tornio, Elia, dimmi. Quello ma anch'io lavoro, che anno mi faccio l'Europa in largo e lungo, 15 giorni sono stato ieri in Italia, che sono rientrato, siccome un po', seguite. Visto che è da quando aveva 19 anni o da 19 anni che è in Italia, si è imparato il lavoro di tornitore, adesso a parte sua è stata un'agenda di tornitura. Ma perché deve stare a casa sua? Vuole stare qua? Vuole stare così, impara il lavoro ai suoi paesani. Possiamo anche ragionare di mandarmi mio paese, ma fammi accompagnare di tua sorella, capito? Perché tu non te la farai muovermi qua. Hai capito? Fammi accompagnare di tua sorella, così almeno possiamo ragionare, ok? Hai una sorella, Elia? Purtroppo no, ho due fratelli, purtroppo. Ciao, grande scontro. Camionista contro tornitore. Italia vera, la realtà, Davide, la realtà. Ti dovrebbe piacere a te, le dovrebbe piacere a lei, Freccero, la realtà. Naturalmente, ma ormai lo trovo naturalmente un format molto debole. Naturalmente, questi ascoltatori che litigano tra di loro, naturalmente senza vedere. Dovrebbe passare direttamente all'azione. Solo litigare. Sembra la fiction di Rai 1. Questa trasmissione ormai mi ricorda molto, naturalmente, la fiction di Rai 1 con Terence Hill, quel prete. Ormai è tutto normale qui. Anche dai, sembra di stare su Rai 1 in questa trasmissione. Dai, una roba dei preti. Ma perché, che cosa dovrebbero fare di più? Noioso ormai, dai, i nazisti, va bene, normale, ci sono. Dai, andare oltre, dai. E dici, questo fascista col nero si dovrebbero affrontare fisicamente, sennò altrimenti non c'è il naturale sbocco. Naturalmente è quello lì, naturalmente è la televisione, naturalmente televisione è vedere, naturalmente, dai, la regola base, non funziona, non fa ascolto, sennò dai, cioè, basta telefoni, si dovrebbero scontrare fisicamente, lo dico sempre, dai, ormai fai una trasmissione, naturalmente, e ci vogliono per forza morti, feriti, Cruciani ormai è come Bruno Vespa, naturalmente tutto tranquillo, sì, è una questa ormai, mettetemi la musica di Porta a Porta, naturalmente, non è più questa musica rock è in distonia, naturalmente, con quello che sei, un moderato, naturalmente, venduto al sistema ormai. Ma è tutto, ma succede qualsiasi cosa, non funziona più, non fa ascolto, è tutta fiction, dai. Enrico da Cagliari, vai, Enrico da Cagliari, dimmi Enrico, dimmi. Provo a fare i complimenti per la splendida telefonata che hai fatto questi giorni col signor Dave Blasco. Sono venuto ad apprendere, tra l'altro, che il signor Dave Blasco ha scritto quello del wrestling, sì, non so, campione io lo definisco, ma non so se sia un campione, lo sospenderanno, non lo so. Vengo ad apprendere che il signor Dave Blasco, quello che si dichiara fascista, eccetera, ha scritto a un giornale del wrestling online dicendo che praticamente eravamo d'accordo con questo sketch. Posso assicurare Dave Blasco e tutti che non c'è nessuno sketch, nessuna preparazione, nulla. Ogni tanto mi chiede di intervenire con dei messaggi e ogni tanto chiama lui oppure chiamiamo noi, ecco, per fare. Perché punto. Se eri in combutta con lui era proprio una roba. Ma stai scherzando? Una ma cosa, sei pazzo? No, ma infatti non so, io non lo credo perché ti conosco. Ma stai, ma sei impazzito? Ma assolutamente una no. Cosa dunque, gravissima. Voglio dire ai signori del wrestling, che non c'è nessuna cosa preparata prima. Dimmi Enrico. No, hai detto tutto a te. Ti volevo informare di perché questa storia. Perché tu chi sei? Scusa, chi sei Enrico? Scusami. Io sono un fan del wrestling. Ah, un fan del wrestling. E leggo le pagine, le varie pagine di wrestling, e ho letto questa storia perché lui si è vantato di mettersi d'accordo con voi. Guarda, Enrico, adesso io non so... non so dove l'ha fatto, vado a leggere bene la situazione. Mi hanno detto che non ho letto bene i dettagli, ma ti posso assicurare, lo posso dire agli amici del wrestling eccetera, che quello che ha detto il signor Dave Blasco è tutto farina del suo sacco, non c'è stato nessun accordo precedente, non ho mai concordato nulla perché non concordo mai nulla, altrimenti dovrei passare ore e ore durante la giornata a concordare gli interventi. È successo che ha mandato dei messaggi, abbiamo rimandato dei messaggi, voleva intervenire, qualche volta ha chiamato lui, qualche volta abbiamo chiamato noi, ma senza sapere il contenuto, come il contenuto degli interventi, punto e basta. Si sa che vuole attaccare Parenzo, punto. Questa è l'unica cosa che si sa, ma i contenuti dell'intervento non si sanno. Cioè, questo è chiarissimo. Cioè, ciao, okay. Enrico. Ciao. Steven Ogongo. Ma che pezzo di merda sei, Cruciani? Ma sai che questo è un problema? Master. Allora ragazzi, nei giorni scorsi che cosa è successo? Che un signore di Fratelli d'Italia, e Parenzo non sarà sorpreso da questo, residente credo a Castellammare di Stabia, tale Sica, Ernesto Sica, un consigliere comunale, ha detto che l'Ampi è una montagna di merda. Scusami, hai detto, però volevi che lo dicessi tu, perché sennò sembra che io sia. Allora, un signore di Fratelli d'Italia chiamasi Sica. Scusami, è andata via la linea due secondi fa. Ah, d'accordo. Chiamasi Sica, ha detto che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia è una montagna di merda. Questo chi l'avrebbe detto? Un signore di Fratelli d'Italia. Castellammare di Stabia. Il quale signore ha anche dei precedenti, una volta mi sembra che abbia scritto di avere delle, non delle simpatie, ma insomma ha detto che il nazismo ha il suo fascino. Non l'ho sentito. Allora, tu hai detto, ma forse perché non vorrei essere accusato di essere fazioso, tu hai detto che un signore di Fratelli d'Italia, sei sicuro di quello che dici? Sì, Fratelli d'Italia di Castellammare di Stabia ha detto assolutamente che l'Ampi è una montagna di merda, riferendosi alle polemiche sulle foibe che ci sono. Questo l'ho capito, d'accordo. E poi una volta ha detto l'anno scorso che il nazismo ha un suo fascino. Ma chi l'ha detto? Non so questo? In che, l'ha detto chi sempre l'ha detto? Lui. Ma di chiamiamolo, chi guarda, chiamiamolo. Sì. Pronto? Sica? Sì, Pronto, sono Cruciani, buonasera. Buonasera Sica, allora che vogliamo dire su questa frase qua che hai scritto? Cioè che l'Ampi è una montagna di merda. Mi sembra che non ci siano spiegazioni, no? Questa frase è semplicemente una citazione, un titolo virgolettato di un post che a quanto pare pochi hanno letto, da pochi almeno di quelli. Sì, ma l'hai scritto tu la frase, l'hai scritto o no? Sì, l'hai scritta la frase, l'Ampi è una montagna di merda. È una citazione non mia, che ho riportato come titolo di un post, che invece il contenuto era ovviamente diciamo diverso, molto meno spinto rispetto alla frase, che era un po' provocatoria. Ma ho capito, ma adesso non stiamo a fare questi giochetti con le parole. Hai scritto questa cosa perché la condividi, perché alcuni dell'Ampi hanno criticato la giornata delle foibe, cose di questo tipo, e tu hai detto che l'Ampi è una montagna di merda. Cioè, questa è la realtà. Questo è il filo rosso che collega le cose. Ho capito, però non è che uno può dire no, non l'ho detto. L'hai detto, perché se uno lo mette significa che lo dice, non cerchiamo scuse, perché tu consideri sostanzialmente l'Ampi una montagna di merda, altrimenti non l'avresti scritto. Scusami, abbi pazienza, non ci possiamo tirare indietro. Per te l'Ampi è una montagna di merda. È una citazione non mia, che condivido nel contenuto, perché ritengo che l'Ampi nel contenuto, non nella forma, però ovviamente. In che senso? Scusa, allora, condividi nel contenuto dicendo per te l'AMPI che cos'è? Scusa. Per me l'AMPI è un'associazione che secondo me è fuori dal tempo, si comporta in un modo secondo me anche un pochino sbagliato nei confronti proprio della propria storia. È un'associazione dove andrebbe sciolta secondo te? Ma secondo me andrebbe ridimensionata. Che vuol dire ridimensionata? Ridimensionata. Senta, caro amministratore pubblico. Scusi, pubblico. Sì, aspetta un attimo, aspetta un secondo. Però tu lei si dovrebbe dimettere immediatamente. Ma lei si dovrebbe immediatamente dimettere. Ma tu sei fascista? Lei è una vergogna. Sica, è sei una fascista o no? Vergognosa. Vergognosa. Io sono di destra. No, però lei è vergognoso e basta. Non è di destra. La destra che vuol dire? La destra. Lei è una persona vergognosa che mette in imbarazzo, io penso, il suo stesso partito. E storicamente? Mette in imbarazzo il suo stesso partito, lei. Storicamente hai detto ma ti non mi risulta, perché Giorgia Meloni prima di me ha definito l'AMPI una vergogna, l'ha epitetata in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi penso che abbiamo, cioè, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, quella che ha contribuito a liberare questo paese dal nazifascismo, in maniera vergognosa. Dunque, secondo te il fascismo è stata una cosa positiva? Mi pare di capire. Il fascismo è stato in gran parte una cosa positiva. Dunque sì. Mussolini è stato un grande statista. È un coglione, posso dirlo. Mussolini è stato un grande statista. Assolutamente sì. È stato un grande statista. Questo è quello che pensa un dirigente di Fratelli d'Italia. Io sono l'esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, dirigente provinciale. Bene, aggraviamo la sua situazione. Cosa fece di positivo Sica il fascismo? Allora, essendo io avvocato, la prima cosa che mi viene in mente è il codice Rocco, la prima cosa che mi viene in mente. Essendo io nel mondo giuridico, la cosa che mi viene in mente è tutta la questione legata alla previdenza sociale, per esempio. Poi? Dunque, gran parte... I treni che arrivavano in orario, le paludi, le infrastrutture, certo, i treni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato uno statista simile a Mussolini o no? Ma simile cioè, a Mussolini. Come carisma, secondo te Mussolini è stato l'ultimo nostro grande statista o no? Questo che ti voglio chiedere. Per uno con quella tipologia di carisma penso di sì. Ma io ritengo che sia uno di quegli uomini che nel bene o nel male ha un carisma che è difficilmente uguagliabile. Ripeto, nel bene o nel male, io non so fare qua l'apologia del fascismo, né so fare. Qualche volta a Predappio sei andato o no? Predappio? No, perché a me non piacciono le carnevalate, ci andrò sicuramente, ma nei periodi più morti dell'anno, perché a me quelli più morti, certo. Mi danno fastidio. Dove le può andare a salutare, a rendere omaggio a Sua Eccellenza, no? A Sua Eccellenza. Ma io ho un profondo rispetto nei confronti della sicura storica. Per quel criminale di Sua Eccellenza, benissimo. Per criminale di Sua Eccellenza. Io ne ho un profondo rispetto nei confronti della È un uomo storica. Che ha commesso crimini, tecnicamente è un criminale. Però è una persona che ha commesso dei crimini. Io voglio dire una cosa, tu adesso non te la puoi... A me sarebbe piaciuto tanto vedere un processo nei confronti di Mussolini invece che vederlo appeso a comunque interessante che un dirigente di Fratelli d'Italia va a Predappio da Sua Eccellenza Benito Mussolini e dice che nel fascismo c'è una cosa buona. Agli atti, vuole andare. Sono andati tanti dirigenti del mio partito, perché è una cosa che non c'è nulla di male. Ma se uno rendesse omaggio alla tomba di Totò Riina, ad esempio, le farebbe schifo, immagino. Se uno rendesse omaggio alla tomba di Totò Riina, vabbè, non è la stessa cosa, dai. Al di fuori dei parentesi, sì, mi farebbe abbastanza schifo. Ma non è la stessa cosa. È uguale. Cosa. Un criminale. Possiamo paragonare le due cose. Infatti sono entrambi morti. Io le faccio una domanda, ma secondo lei? Infatti sono entrambi morti. Presidente Pertini, un eroe della Repubblica. Pertini è andato a baciare alla tomba di Tito, del maresciallo Tito. Secondo lei è andato a rendere omaggio a Tito? Pertini non che va ad omaggiare la tomba di Tito. Non c'è stato nessun bacio. Ma all'epoca Tito era un capo di Stato riconosciuto da tutti. Ma non c'è stato nessun bacio. Ma no, bacio non c'è, quello è morto. Omaggiare la tomba di Pertini, di Tito. Non c'è stato. Omaggiare la tomba. Non c'è stato. Lei dice, vabbè, allora conosciamo due storie diverse. Vado a fare un controllo e poi foto che gira su Twitter, scusi ignorantone, la foto che gira su Twitter di Pertini che bacia una bara con dietro il simbolo del Partito Comunista, si riferisce al Partito Comunista Italiano. Non parlo di quella foto, che me ne importa quella, io parlo del gesto storico che è riconosciuto. Sì, grazie. Pertini andò al funerale di Stato di Tito, certo, andò. Vabbè, ci andarono tutti. Ma che c'entra? Vabbè, comunque a me piacerebbe anche molto la Thatcher, che fa... anche la Thatcher ci andò, anche la Thatcher è una cosa positiva, anche è una la cosa Thatcher positiva. Andrò fratello d'Italia, anche la Thatcher, ignorante che non sei altro, mi piacerebbe tanto svolgere dei confronti sereni invece che gridare.